Tra le varie sequenze di erotismo del Portiere di Notte, il film che la Cavani diresse nel 74, ce n'è una in cui Dirk Bogarde, preda dei propri sensi malatici, bacia voluttuosamente le dita del piede di Charlotte Rampling. In Lanterne Rosse, diretto da Zhang Yimou nel 91, una giovane viene preparata da un'anziana espertissima ad una notte d'amore con il suo marito padrone, e fra i vari preliminari non ne manca uno dall'apparenza anatomo-tecnologica. Alla giovane vengono ripetutamente battuti i piedi con apposito martelletto. Il piede sembrerebbe averci qualcosa a che fare con il sesso. Lanterne Rosse si svolge nella Cina degli anni 20, in quella stessa Cina dove un decreto imperiale del 1902 aveva finalmente proibito la turpe pratica di impedire alle femmine lo sviluppo delle 26 ossa, 114 legamenti e 20 muscoli di cui si compone il piede. Il piede piccolo, dolorosamente ridotto fino ad un moncherino inutilizzabile perfino per camminare, rappresentava la totale subordinazione della donna, resa nullità sociale e giocattolo sessuale. Il decreto imperiale poneva fine ad una storia peraltro lunga almeno 1000 anni. Sul rapporto fra piede e sesso e sulla funzione simbolica del primo nei confronti del secondo, mai viceversa, riposano pratiche più e meno confessabili in ogni tempo e in ogni paese, nonché incrollabili convinzioni, come quelle relative alla proporzionalità simmetrica nella grandezza del piede e degli apparati genitali, valorizzati inversamente nel maschio e nella femmina. Spianata appare la strada, allora, per le ovvie interpretazioni psicanalitiche, no? Il piede assomiglierebbe al pene ed eccolo dunque passibile di feticismo, ovvero di quella transazione compromissoria derivata, secondo Freud, dalla seccatura del maschio di non trovare un pene nella femmina. Ma dai piedi il feticismo si trasferirebbe sulle scarpe e ciò spiegherebbe la loro forma particolarmente affusolata, nonché la passione, a mio avviso tutta da verificare, nelle classi molto agiate di berci dentro lo champagne. Che anche i nasi abbiano forma oblunga e che nessun amante ne risulti un appassionato succhiatore, o che di tutto si possa fare un simbolo di qualcos'altro, agli psicanalisti interessa poco. A loro è sufficiente che l'interpretazione appaia coerente con le altre, in modo di dare l'impressione di un sapere ben costruito e asseverato in quei fatti che loro stessi e solo loro stessi hanno chiamato in causa. A dimostrazione ulteriore, tuttavia, che un mondo orbato dalla psicanalisi non sarebbe affatto peggio e che anzi certi conti tornerebbero meglio e prima, riferirò di una alternativa interpretazione dall'aspetto, a mio avviso, più sensato. Ramachandran è uno specialista di arti fantasma, professore di neuroscienze, dirige un laboratorio all'Università di San Diego. E con Sandra Blakeslee ha recentemente pubblicato un libro, La donna che morì dal ridere. Lì, fra le tante informazioni che dà intorno alle ricerche sul cervello e fra le acute considerazioni che ne cava, fornisce anche una dettagliata spiegazione del possibile rapporto tra piedi e sesso. Ramachandran si occupa di arti fantasma ed è quindi ovvio che scriva articoli sull'argomento e che conseguentemente sia destinatario delle comunicazioni di quei sofferenti che, per una ragione o per l'altra, hanno perso un braccio o una gamba. Il braccio o la gamba non l'avevano più, ma loro se li sentivano lo stesso e cosa più grave, faceva loro un male terrificante, senza che i medici riuscissero a fare alcunché per far sparire e l'uno e l'altro. Ramachandran trova dunque una spiegazione plausibile del perché gli arti fantasma ci siano e del perché continuino a far male, e ci scrive sopra un articolo. Non trova il modo di eliminare il problema, ma ugualmente vari pazienti, consapevoli degli ostacoli sul cammino della scienza, gli telefonano per ringraziarlo. Fra le tante, Ramachandran prende nota di due telefonate. La prima è di una laureanda in medicina che, a seguito di un brutto incidente, aveva dovuto subire l'amputazione della gamba sinistra poco sotto il ginocchio. gli telefona per ringraziarlo di quanto lui ha scritto, perché ora perlomeno sa che cosa le sta succedendo, e per riferirgli, non senza qualche imbarazzo, di un fenomeno particolarmente bizzarro. Sente una strana sensazione al piede della gamba mancante mentre fa l'amore, ogni volta. La seconda telefonata è di un ingegnere dell'Arkansas che 2 mesi prima aveva perso una gamba. Anche lui telefona per ringraziare delle spiegazioni, per sapere delle ricerche in corso e fra qualche tentennamento per informare Ramachandran di quanto gli sta accadendo. Mentre fa l'amore, al momento dell'orgasmo, non solo sente il piede fantasma, ma lo sente godere all'unisono con i suoi genitali, ottenendo così un orgasmo ben più potente di prima, quando le gambe erano due come i piedi. Beh, un'idea di come spiegare questi strani fenomeni Ramachandran ce l'ha. Fin dai primi anni 30, il neurochirurgo canadese Wilder Penfield condusse una serie di esperimenti sul cervello umano, stimolandone elettricamente la corteccia, in anestesia locale e dunque potendo usufruire dei resoconti diretti dei pazienti. Riuscì così a costruire gradualmente la mappa somatosensoriale della corteccia cerebrale, o in altre parole riuscì a individuare alcuni punti sulla corteccia cerebrale ai quali corrispondevano diversi segmenti corporei. Scoprì che questa mappa riproduce una specie caricaturale, diciamo di un omuncolo rovesciato, il cui volto si viene a trovare vicino all'estremità inferiore della superficie laterale, verso l'esterno, e i cui piedi vanno a finire sulla superficie mediale del lobo parietale, verso l'interno. La parte del leone, topograficamente parlando, la fanno le mani e la bocca, che evidentemente, svolgendo compiti innumerevoli e raffinatissimi, tengono occupati più neuroni di altre parti del corpo umano di più facile gestione. Questa mappa, dicevo, rappresenta un omuncolo abbastanza credibile, dove ogni parte si trova al posto in cui penseremmo di trovarla, tranne che per 2 particolari. Le mani si trovano accanto al volto e, ma guarda un po', i genitali si trovano immediatamente sotto i piedi. Aree neuronali vicine, insomma, dove, sostiene Ramachandran, un'attività può riverberarsi sull'altra o dove possono avvenire minimi sconfinamenti in seguito a traumi, come un'amputazione, come un progetto di sviluppo impedito, sufficienti per ingenerare nel cervello interpretazioni erronee e sensazioni conseguenti. Così, in presunti sani e meno sani, sarebbe spiegato il passaggio dal piede al sesso, con un unico neo. Ramachandran non accenna neppure al problema inverso, quello di cosa succede ai piedi dei poveretti sottoposti a penectomia. Nessuno sa cosa abbia dovuto sopportare la povera Cenerentola dopo essersi sposata con quel maniaco del principe. A proposito, la versione più nota della fiaba, ridotta per un pubblico di bambini che non si chieda perché mai un principe voglia a tutti i costi una fanciulla dal piede piccolo, più piccolo della micidiale scarpina di cristallo tanto da perdersela per strada, la versione più nota è quella che Charles Perrault pubblicò nel 1697, circa 120 anni prima dei fratelli Grimm. Faceva parte questa fiaba del volume intitolato Storie e racconti del tempo passato e sottotitolato Racconti di mia madre Loca. Loca in questione, a quanto sembra, rinvia ad una regina Pedoc che verrà ricordata ancora nel 1893 da Anatole France, titolando uno dei suoi libri migliori La rosticceria della regina Pedoc, e che sembra questa regina identificabile storicamente nella moglie del re dei Franchi, Pipino III, detto il Breve. Manco a farlo apposta, in barba a Freud, alle neuroscienze e al nome del marito, questa regina venne chiamata Berta dai grandi piedi.